Europa 24. Vigilia importante quella di oggi per l'Europa, domani è il giorno del vertice a La Valletta sotto presidenza di Malta. Il tema sul tavolo è quello dell'immigrazione, con l'obiettivo chiaro di trovare un accordo per fermare la rotta dei migranti dalla Libia all'Italia. Un saluto da Anna Migliorati, dunque un vertice che ci interessa direttamente e molto. Ieri il presidente del Consiglio europeo Tusk per questo è stato a Roma, oggi invece a Bruxelles ha incontrato il premier libico al-Sarraj, che in qualche modo ha aperto una porta all'accordo, ma come già fece la Turchia per fermare la rotta balcanica, ha in qualche modo presentato il suo conto all'Europa. L'Unione Europea deve impegnarsi più concretamente per sostenere la stabilizzazione della Libia, è il messaggio lanciato dal premier libico da Bruxelles. La Libia, ha detto, è impegnata nella lotta al terrorismo e continuerà ad esserlo nonostante l'altro prezzo che paga, ma ha aggiunto, speriamo che i meccanismi europei di aiuti siano più concreti. Non parliamo dell'ammontare di soldi, perché non è solo questo, dobbiamo essere abbastanza seri da raggiungere insieme l'obiettivo di stabilizzare la situazione, ha detto. Il che non significa che di soldi l'Europa non dovrà sborsarne, anzi probabilmente parecchi. D'altra parte, che l'obiettivo europeo sia chiaro e che Bruxelles sia determinata, il presidente del Consiglio europeo Tusk lo ha detto senza mezzi termini. L'Europa ha provato di able to close down irregular routes of migration, as we did on the Eastern Mediterranean route. Example of our cooperation with Turkey and other countries in this part of our region. Now it is time to close down the route from Libya to Italy. È tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia. Possiamo farlo come abbiamo chiuso la rotta balcanica, lo avete sentito, ha detto Tusk, e allora staremo a vedere domani cosa emergerà dal vertice della Valletta. Intanto l'Europa attende anche un altro verdetto, quello del Parlamento di Londra per la Brexit. Eyes to the right 498, the nose to the left 114. Theresa May può tirare un sospiro di sollievo, il Parlamento dice sì all'avvio della Brexit. La Camera dei Comuni vota infatti a favore del progetto di legge che autorizza il suo governo ad avviare negoziati formali per il divorzio dall'Unione Europea attraverso la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. 498 sì, 114 no, a favore conservatori e anche laburisti, contrari invece nazionalisti scozzesi e liberaldemocratici. Un sì al governo che nelle dichiarazioni di molti deputati inizialmente favorevoli al Remain è stato soprattutto un sì alla volontà popolare espressa nel referendum di giugno. Rimane ora lo scoglio del passaggio alla Camera dei Lords, libera da vincoli elettorali e più europeista, ma in caso di modifiche l'ultima parola resterà sempre ai comuni. Insomma, la partita non sarà difficile per la Premier, che punta ad arrivare ad un voto entro il 7 marzo, in tempo per dare il via formale alla Brexit al vertice europeo del 9 e 10 marzo. Da lì scatteranno i 2 anni di negoziato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia a rischio multa per lo smog. Il 15 febbraio dovrà presentare a Bruxelles un piano per evitare di sborsare altri soldi. Ci siamo mossi, sono sereno, dice Radio 24 il ministro dell'Ambiente Galletti. Arriviamo a Bruxelles per la prima volta con i 4 piani della qualità dell'aria di tutte le regioni, di tutte le regioni del nord, quindi sto parlando di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, coordinati fra di loro con degli interventi strutturali messi in campo, alcuni già fatti, alcuni da fare con la tempistica, quindi tutto un lavoro è stato fatto. E allora vedremo anche su questo fronte cosa succederà. Noi nel frattempo ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. L'Europa però, vi ricordo come sempre, vi aspetta anche questa sera alle 21 con Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.